Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 19. Paolo in Efeso ordina che alcuni discepoli siano battezzati nel nome di Gesù, e con l'imposizione delle mani impetra ad essi lo Spirito Santo, ed ivi predicando fa molti miracoli. Dei giudei, i quali non credendo tentavano di cacciare i demoni nel nome di Gesù predicato da Paolo, molti confessando i loro peccati, abbruciano i libri superstiziosi. Demetrio Orefice muove gran sedizione contro di Paolo, la quale finalmente sedata con gran pena da Alessandro. Or egli avvenne, che mentre Apollo era in Corinto, Paolo scorse le province superiori, giunse ad Efeso, e vi trovò alcuni discepoli, e disse loro, «Avete voi ricevuto lo Spirito Santo dopo, che avete creduto?» Ma quelli gli dissero, «Non abbiamo nemmeno sentito a dire, se siavi lo Spirito Santo». Ed egli gli disse, «In chi dunque siete stati battezzati?» E quelli dissero, «Col battesimo di Giovanni». Ma disse Paolo, «Giovanni battezzò con battesimo di penitenza il popolo dicendo, che credessero in quello, il quale doveva venir dopo di lui, cioè in Gesù. Udite tali cose furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E avendo Paolo imposte loro le mani, venne sopra di essi lo Spirito Santo». E parlavan le lingue, e profetavano. Questi erano in tutto circa 12 uomini. Ed entrato nella sinagoga parlava liberamente, disputando per 3 mesi, e rendendo ragione delle cose del regno di Dio. Ma indurandosi alcuni, e non credendo, e dicendo male della via del Signore dinanzi alla moltitudine, ritiratosi da coloro, segregò i discepoli. E disputava ogni dì nella scuola di un certo tiranno. E ciò fu per 2 anni, talmente che tutti quelli, che abitavano nell'Asia, udirono la parola del Signore e giudei, e greci. E miracoli non ordinari faceva Dio per mano di Paolo, di modo che persino portavansi ai malati i fazzoletti, e le fasce state sul corpo di lui, e partivansi da essi le malattie. E gli spiriti cattivi ne uscivano. E si provarono anche alcuni di che andavano attorno esorcisti giudei, ad invocare il nome del Signore Gesù sopra coloro, che avevano degli spiriti cattivi, dicendo, «Vi scongiuro per quel Gesù predicato da Paolo». Che facevan questo, erano 7 figli di Sceva giudeo principe dei sacerdoti. Ma il malo spirito rispose, e disse loro, «Conosco Gesù, e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E saltato loro addosso quell'uomo, in cui era lo spirito pessimo, e potendone più di loro 2, gli strapazzò in guisa, che ignudi, e feriti si partirono da quella casa. E questa cosa la riseppero i giudei tutti, e i gentili, che abitavano in Efeso, ed entrò in tutti i loro timore, e magnificavasi il nome del Signore Gesù. E molti di quelli, che avevano creduto, venivano a confessare, e manifestare le opere loro. E molti di quelli, che erano andati dietro a cose vane, portarono a furia i libri, e li bruciarono in presenza di tutti, e calcolato il valore di essi, trovarono la somma di 50.000 denari. Così cresceva forte, e si stabiliva la parola di Dio. Terminate queste cose, propose Paolo in spirito, girata la Macedonia, e l'Alcaia, di andare a Gerusalemme, dicendo, «Dopo che io sarò stato là, bisogna, ch'io vega anche Roma». E mandati nella Macedonia 2 di quelli, che lo assistevano, Timoteo, ed Erasto, si rimase egli per un tempo nell'Asia. E allora nacque non piccol tumulto per cagione della via del Signore. Impero che un certo orefice, per nome Demetrio, il quale faceva in argento dei templi di Diana, dava non poco guadagno agli artigiani, convocati i quali, e quelli, che di cose simili lavoravano, disse, «O uomini, voi sapete, che da questo lavorio vi è la nostra ricchezza, e vedete, e sentite, che non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, questo Paolo con sue persuasioni ha fatto cambiare di sentimento a molta gente, affermando, che non son dei che, che si fan con le mani. E non solo è pericolo che questa nostra professione vituperevole divenga, ma di più, il tempio della grande Diana sarà contato per niente, e comincerà a distruggersi la maestà di lei, cui l'Asia tutta, e il mondo adora. Udito questo, coloro si riempirono di sdegno, esclamarono, dicendo, «Gran Diana degli Efesini!» E si riempì la città di confusione, e corser tutti d'accordo al teatro, strascinando Gaio, e Aristarco Macedoni, compagni di Paolo. E volendo Paolo affacciarsi al popolo, non permisero i discepoli. Alcuni eziandio degli Asiarchi, che erano gli amici, mandarono a pregarlo, che non si esponesse al teatro, e quelli gridavano chi in un modo, e chi in un altro, essendo la adunanza in confusione, e i più non sapevano il perché si fossero adunati. Fu poi tratto fuor della turba Alessandro, spingendolo avanti i giudei. E Alessandro fatto segno con mano, che si tacessero, voleva dir sua ragione al popolo. Ma subito che l'ebber conosciuto per giudeo, si fecer di tutti una sola voce, che per quasi due ore gridavano, «Gran Diana degli Efesini!» E avendo il segretario calmata la turba, disse, «Uomini Efesini, e quale uomo?» Che non sappia che la città di Efeso è adoratrice della grande Diana, prole di Giove. Non potendo adunque contraddirsi a questo, convenevol cosa sia, che voi vi acquietiate, e nulla facciate temerariamente. Impero che avete condotti questi uomini né sacrileghi, né bestemmiatori della vostra dea. Che se Demetrio, e gli artefici, che sono con lui, hanno da dire contro qualcheduno, vi sono i giorni, nei quali si tien ragione, e vi sono i proconsoli, se la disputino tra di loro. Che se alcun'altra cosa voi bramate, in una legittima adunanza potrà decidersi. Impero che siamo in pericolo di essere accusati di sedizione per le cose di questo giorno, non essendovi chi abbia dato causa a questo sollevamento. E detto questo licenziò l'adunanza. Note. 19,1. Scorse le province superiori. Vale a dire settentrionali, come il Ponto, la Bitinia, la Galazia, la Frigia. 19,2. Avete voi ricevuto lo Spirito Santo e il sacramento della confermazione, il quale si conferiva per lo più immediatamente dopo il battesimo. Questi discepoli trovandosi a Gerusalemme, avevano udito la predicazione del precursore, e ricevuto da lui il suo battesimo, e sulla testimonianza del Battista, e per quello che avevano udito, e forse veduto di Gesù Cristo, avevano creduto, che egli era il Messia, ma non erano ancora istruiti abbastanza nella fede. Onde ignoravano la necessità del battesimo istituito da Gesù Cristo. Non abbiamo nemmeno sentito a dire, queste parole non vogliono assolutamente intendersi, come se costoro dicessero di non avere idea alcuna dello Spirito Santo e di non averne mai sentito parlare. Impero che di questa persona della SS Trinità si parla sovente nel Vecchio Testamento, e per ispirazione di essa tutti sapevano aver profeti parlato, ma voglion dire, che non solo non hanno ricevuto lo Spirito Santo, ma neppur sanno, che si avi nella Chiesa potestà di conferirlo ai credenti, vale a dire non solo non ha ricevuto il sacramento di confermazione, ma neppur sanno che si avi tal sacramento. 19,4. Giovanni battezzò e ci vale a dire il battesimo di Giovanni era destinato a preparare il popolo per mezzo della penitenza a ricevere l'annunzio di grazia. E il battesimo di Gesù Cristo. Infatti egli non predicava quasi altro, né ad altro esortava, che a credere in colui che venivagli appresso, cioè in Gesù Cristo, da cui ricever doveano una cognizione più intera e perfetta del regno di Dio e i doni celesti, de quali era venuto a far parte a tutti gli uomini. 19,6. E avendo Paolo imposte loro le mani, di qui può inferirsi che il battesimo non fu amministrato ad essi da Paolo, ma da alcuno dei suoi compagni, de quali si fa menzione v. 22. 29, 19,9. Segregò i discepoli e disputava ogni dì nella scuola di un certo tiranno. Né volle egli andar più nella sinagoga, né che vi andassero i suoi neofiti, e andò a insegnare nella scuola di un sofista, ossia retore gentile, chiamato tiranno. 19,10. E ciò fu per 2 anni, e in questi 2 anni non si contano i 3 mesi, nei quali egli frequentò la sinagoga. Tutti quelli che abitavano nell'Asia e il lungo soggiorno fatto da Paolo in Efeso, città frequentata da tutta l'Asia a motivo principalmente del tempio di Diana, che qui vi era comune a tutti gli asiatici. Questo lungo soggiorno servì a spargere per tutte quelle parti la luce dell'Evangelio. 19,12. I fazzoletti e le fasce. La voce sudaria significa certamente fazzoletti da asciugare il sudore. L'altra parola semicinctia può significare e le fasce, che all'uso orientale si avvolgevano alla testa, e anche i grembiulli o di lino o di pelle, dei quali si servono gli artigiani nel lavorare. Ma senza entrare in più lunga discussione intorno al senso di queste 2 parole, osserviamo piuttosto che non a caso il Signore ha voluto che in un libro dettato dallo Spirito Santo fosse scritto l'uso che facevano i fedeli di cose in apparenza civili, ma santificate in certo modo dal toccamento del corpo dell'Apostolo per operare guarigioni di malati e liberazioni di ossessi. Concio sia che erano per venire un giorno degli uomini, i quali vantandosi continuamente della scienza delle scritture, e a piena bocca gloriandosi di non avere altra regola della lor fede, che i sacri libri, dovevano giungere a tanto di temerità e di arroganza, che non dubitassero di accusare la Chiesa loro madre di superstizione nel rispetto, e nell'onore, che ella professa di rendere alle reliquie dei santi. Accusino adunque costoro anche i fedeli dei primi giorni del cristianesimo di superstizione, perché i fazzoletti e le fasce usate da Paolo custodivano per valersene a pro dei malati, e, se crediamo al Grisostomo, anche a risuscitare dei morti. 19,13. Alcuni di che andavano attorno esorcisti giudei, e da esse, Matteo ancora, capitolo 12,27, apparisce che erano tali esorcisti presso i giudei, e da esse, Luca impariamo, che alcuni di questi non riuscendo loro, come prima, di scacciare i demoni nel modo usato, si valevano con felice successo del nome di Gesù Cristo, Luca 9,49. 19,14. Disceva giudeo principe dei sacerdoti, vale a dire capo di una delle famiglie sacerdotali, imperocché non abbiamo fondamento alcuno per credere che egli fosse stato sommo pontefice. 19,15. Conosco Gesù, e so chi è Paolo, ecc. Tutta la storia della Chiesa è piena di illustri esempi dell'autorità esercitata da cristiani contro il demonio e del potere degli esorcismi nel nome di Gesù Cristo. Ma qui il demonio con ragione domanda a costoro, onde abbiano ricevuto l'autorità di comandare a lui, mentre, quantunque il nome di Gesù invochino, non credono però in lui, e nulla hanno di comune co' suoi discepoli. 19,16. E potendone più di loro 2. 2 soli dei figliuoli di Sceva si trovarono a questo fatto. 19,18. E molti di quelli, che avevan creduto, venivano a confessare e manifestare le opere loro. A gran ragione gli interpreti greci, e dopo di essi i teologi ravvisano in queste parole una confessione sacramentale fatta dopo il battesimo da fedeli di Efeso. E infatti non può restringersi il senso di questo versetto a una generica e pubblica protesta di aver peccato. 19,19. E molti di quelli, che erano andati dietro a cose vane, e ci vuolsi intendere la magia, e le arti che con questa confinano, l'astrologia giudiciaria, e la genetliaca. Di tutte queste cose facevasi studio in Efeso più che in qualunque altro luogo. testimoni che caratteri magici conosciuti col nome di lettere efesine, e rammentati da molti scrittori. È da credere che i libri di queste diaboliche scienze, che furono portati a bruciare, fossero nelle mani non dei già battezzati fedeli, ma dei semplici catecumeni. Trovarono la somma di 50.000 denari, verisimile essendo, chiesse. Luca abbia fatto questo computo piuttosto a moneta ebrea, che romana, o greca, o asiatica. Prendendo la parola denaro per il siclo di argento, questa somma ascenderebbe a più di 14.000 scudi romani, la qual somma, grandissima in che tempi nei quali il denaro era tanto più raro che nei nostri, viene a manifestare la grandezza della vittoria riportata dall'Apostolo in Efeso sopra l'inferno. 19,22, e mandati nella Macedonia 2. Questi furono mandati a preparargli la strada alla predicazione della parola, e a farvi una colletta per sovvenire la chiesa di Gerusalemme, i Cor 4, 17, 2, Cor 9, 3, 4. Di Erasto si fa menzione 2, Tim 4, 20. 19,24. Faceva in argento dei templi di Diana. Faceva in argento la figura del tempio di Diana per soddisfare la curiosità e la devozione dei pellegrini, i quali concorrendo da tutte le parti del mondo ad ammirare quella ricchissima e vastissima mole, amavano di riportarne e averne seco una memoria. Plinio racconta che la fabbrica di quel tempio, contato tra i 7 miracoli della terra, costò 220 anni di tempo. 19,25. Convocati i quali, e quelli, che di cose simili lavoravano. Raunati non solo quelli, a quali dava egli da lavorare per le figure del tempio, ma anche gli altri orefici, scultori, pittori, ecce i quali si impiegavano similmente in lavori riguardanti il culto degli dei. Imperocché, come dice lo stesso Demetrio, V26, S. Paolo non solamente screditava Diana e il suo tempio, ma anche di tutti gli dei si faceva beffe, dicendo non potere essere dei che si facevano con le mani. 19,27, cui l'Asia tutta e il mondo adora. Era talmente universale nel mondo il culto di Diana Efesina, che Ulpiano giureconsulto osserva che tra i pochi dei, i quali era permesso a Romani di istituire suoi eredi, era Diana Efesina. 19,28. Gran Diana degli Efesini. Quasi volessero dire, non perirà, ma durerà in eterno la Gran Diana, che di casi Paolo, e i suoi discepoli. 19,29. Al teatro. Nelle città della Grecia il popolo soleva adunarsi nel teatro per trattare i pubblici affari, onde Giovenale parlando di Demostene dice che egli con la sua eloquenza affrenava il pieno teatro. Gaio e Aristarco. Ecce Gaio era di Tessalonica, ma originario di Derbe, capitolo 24. Di Aristarco si parla capitolo 24, e più volte nelle epistole di Paolo. 19,30. E volendo Paolo e l'apostolo voleva farsi vedere al teatro o per acquietare il popolo, o per morire per Cristo. 19,31. Alcuni Eziandio degli Asiarchi. Questi erano i principali sacerdoti dell'Asia, eletti dalle più ricche e potenti famiglie, i quali facevano la spesa dei giochi pubblici, a quali presiedevano, ed erano anche primi magistrati del paese. Lo stesso era delle altre province, onde troviamo i Bitiniarchi, i Cappadociarchi, e ci, principali sacerdoti della Bitinia, della Cappadocia, e ci 19,33. Fu poi tratto fuor della turba Alessandro, e è verisimile che i giudei temendo per loro stessi, nota essendo la loro avversione all'idolatria, vollero separare causa propria da quella dei cristiani, e a questo fine misero innanzi questo Alessandro, il quale doveva essere uomo eloquente, e ben visto dal popolo, affinché discolpasse la sua nazione, e mostrasse che non i giudei ma cristiani, e Paolo loro maestro erano cagione, che Diana e il suo tempio cadesse in disprezzo. Ma il popolo non volle ricevere le scuse di un giudeo, né lasciargli proferire parola, sapendo che come tale non poteva essere nemmeno gli adoratori di Diana, né del suo tempio. 19,35 E avendo il segretario e la Vulgata dice lo scriba. Si crede che questo fosse uno degli ufficiali che presiedevano ai giochi pubblici, eletto dal popolo, e a lui si appartenesse lo scrivere i nomi dei vincitori e i premi che questi avevano riportato. Prole di Giove? Il greco dà piuttosto un altro senso, ed è e del simulacro disceso da Giove. Imperocché la statua di Diana Efesina, come molte di altri celebri templi pagani, si diceva esser venuta dal cielo. 19,37 Né sacrileghi, né bestemmiatori della vostra dea. Può essere che questo segretario non facesse difficoltà di dir bugia, a fine di sedare il popolo, e può anche essere che esse Paolo e gli altri, contentandosi di mostrare l'assurdità dell'idolatria, si astenessero dal nominare Diana, o altro dio in particolare. 19,38 E vi sono i proconsoli. Vale a dire il proconsole, e il legato, ossia vicario del proconsole. 19,39 In una legittima adunanza, convocata da magistrati secondo le leggi, senza confusione e senza tumulto. 19,40 Imperocché siamo in pericolo e ci atterrisce i sediziosi col timore dell'imperatore e del proconsole. Imperocché a tenore della legge romana chiunque avesse fatto raunata di gente o mosso il popolo a tumulto era reo di delitto capitale.